Sostanzialmente si è trattato di una perturbazione che ha interessato l'Italia, in particolare l'Emilia-Romagna, dopo un lungo periodo di siccità, ricordiamo, insomma, di assenza di piogge. Però, come sappiamo, è un po' il problema è questo, che il cambiamento climatico rende le piogge più violente, quindi sono bastati, si fa per dire, 2 giorni di piogge molto molto forti e anomale, perché in alcuni punti, come a caso la Valsenio, sono caduti 260 mm di acqua in 36 ore, che è l'equivalente di circa 3-4 mesi di pioggia in un giorno e mezzo. Quindi è evidente che i corsi d'acqua non riescono a smaltire tutta questa quantità d'acqua. E poi, tutto sommato, infatti inizialmente hanno retto bene, perché il terreno ha cominciato a assorbire, visto il lungo periodo di assenza di piogge, ma poi, a fronte di intensità così, non c'è praticamente niente da fare, insomma, quindi i danni si sono visti. Abbiamo già detto in altre occasioni, ma lo ribadiamo, che fenomeni che un tempo erano considerati anomali sono sempre più frequenti, è così? Sì, io so, per esempio, a Bologna sulle colline bolognesi sono caduti circa 170 mm, anche questi in circa 36 ore, e non è un dato assolutamente eccezionale, insomma, non vediamo da forse c'è stato un evento simile negli anni 20, ma insomma, cose appunto molto molto rare, e appunto la struttura anche dei corsi d'acqua non è dimensionata per tali piogge, quindi non c'è da sorprendersi che succedano tutti questi disastri. A fronte di questo, e a fronte appunto dei cambiamenti climatici che si manifestano sempre più frequentemente, e bisognerebbe ripensare, in questo caso, visto che parliamo di piogge, anche i sistemi di sicurezza idraulica nel nostro territorio? Certo, andrebbe un po' ripensato, diciamo, in senso globale, in senso non sì, al di là degli interventi puntuali, però diciamo una visione più generale di tutto il reticolo idrografico. Ricordiamo che sia Bologna, ma anche tutta la zona di pianura, no? Adesso ci sono allagamenti in Romagna, diciamo, la nostra zona di pianura è mantenuta asciutta poi da tutta una serie di opere che l'uomo ha fatto, di bonifiche, di pompe che spostano l'acqua da un punto a un altro, che erano state dimensionate per un altro tipo di clima. Adesso il clima è cambiato e quindi è evidente che va ridimensionato un po' tutto. Anche per quello che è successo in via Saffi a Bologna c'è, come dire, lo zampino, l'impronta antropica che ha generato il problema, è così? Sì, in via Saffi anche lì è un bel casino adesso, perché c'è quella strettoia che è esploso proprio il soffitto del Ravone dentro un negozio. Quando è stato fatto la tombatura lì negli anni 60, chi faceva un palazzo copriva un pezzo, ma senza una visione organica, quindi lì in quel punto è più stretto e lì esce, solo che sopra c'è un palazzo, c'è via Saffi, cioè non è facilissimo intervenire lì.